Another potential problem in a restaurant is a mistake. Un errore. A mistake in the bill. Mistakes do happen, of course. And if you think there's a mistake in your bill, you can say... C'è un errore nel conto, credo. There's a mistake in the bill, I think. Listen again and repeat. C'è un errore nel conto, credo. And if you want to query the amount... La somma... You can say... Questa somma, per cosa è? What's this amount for? Literally, what thing is this amount for? Listen again and repeat. Questa somma, per cosa è? Instead of... Per cosa è? You'll often hear... Per cos'è? Before you hear those words and phrases in context, listen to them again. C'è un errore nel conto, credo. La somma. Questa somma, per cos'è? And finally, you'll also hear... Incluso. Included. Listen again and repeat. Incluso. And... Precisi. Precise. Masculine plural. Precisi. Ed ora ascolti. Scusi? Sì, signora? C'è un errore nel conto, credo. Un errore? Sì, un errore, guardi. Ma non vedo errori. Ma sì, questa somma qui. Per cos'è? Questa somma qui? Sì, questa somma per cos'è? Questa somma qui è per l'insalata. L'insalata? Ma l'insalata è inclusa nel menù fisso. No, signora, non è inclusa. Ma come no? Il menù fisso dice primo e secondo. Appunto, l'insalata è un contorno. Ma di solito il contorno è incluso nel secondo, o no? No, non in questo ristorante. Qui siamo molto precisi. Per noi il secondo è il secondo e il contorno è il contorno. Se il menù fisso dice secondo, significa secondo. Quindi il secondo è incluso. Il menù fisso non dice contorno, quindi... Sì, sì, ho capito. Non ci sono errori nel conto. Il conto è perfetto. Grazie, signora. So always make sure you know what's included in the set menu. Cosa è incluso nel menù fisso? Remember also that it isn't customary in Italy to pay separately. If you wish to do so, it's better to collect the money in advance and then pay the whole bill. Whether to leave a tip... Una mancia. ...is completely up to the customer. Of course, waiters expect you to leave a tip, especially if you're a tourist, but don't feel obliged to do so.